Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Da Lecco a Milano, a Messina, storie di mala sanità, ma a volte anche storie di umana pietà. Il giovane dottore arrivò in pronto soccorso che il consulto era già cominciato. Il medico di guardia, il radiologo, il chirurgo vascolare erano tutti davanti alla TAC. Il referto era chiaro: aneurisma dell'aorta addominale in fase di rottura. Il giovane dottore chiese se si andava in sala. La risposta arrivò secca del chirurgo: ovviamente si va in sala. Ma nessuno si muoveva da lì. Il fatto è che la signora sapeva dell'aneurisma e 2 anni prima aveva rifiutato l'intervento. La signora aveva dei problemi? Chiese il giovane dottore. Era depressa, demente o cosa? No, niente. 84 anni, senza parenti. Bisognava solo convincerla, mancava il consenso firmato. La paziente era in sala emergenza, attaccata al monitor, separata dagli altri ospiti da una tenda che scendeva dal soffitto. Tranquilla, respirava bene, la pressione era stabile. Una nonnina dagli occhi vivaci, un po' sofferenti. Il giovane dottore la salutò, le rispose, le chiese come stava. Aveva male alla pancia. Il giovane dottore le somministrò un analgesico e le ringraziò. Poi, dopo qualche minuto di silenzio, iniziarono a parlare. La nonnina era ben conscia di quanto era successo, sapeva che l'aneurisma prima o poi si sarebbe rotto, ma lei non aveva voluto farsi operare, non voleva morire in ospedale. Tutti le avevano detto che se si rompeva sarebbe morta lì, su 2 piedi, senza neanche accorgersene. E questo in fondo la tranquillizzava. Così, quando le era venuto quel mal di pancia terribile, mai più pensava all'aneurisma. Se avesse sospettato che era quello, se ne sarebbe stata a casa, così nessuno l'avrebbe operata. Ma quei dottori là volevano operarla a tutti i costi e lei non voleva farli arrabbiare. Il giovane dottore la rassicurò sul fatto che se lei era contraria all'intervento nessuno avrebbe potuto operarla. Se voleva, poteva anche ritornarsene a casa. A queste parole lo sguardo della nonnina si accese di una nuova luce. Davvero poteva tornarsene a casa e morire nel suo letto e vedere per l'ultima volta le sue amiche? Certamente. Non era una cosa semplicissima, bisognava organizzarsi, ma era assolutamente possibile. Quando il giovane dottore tornò dai suoi colleghi, spiegò la situazione, nessuno lo prese sul serio. Nessuno pensò che era ragionevole lasciare perdere e fare in modo che la nonnina se ne tornasse a casa e morire nel suo letto. Ma il giovane dottore rimase fermo nella sua posizione. Lui non avrebbe mai addormentato una persona perfettamente sana di mente, orientata nel tempo e nello spazio, che rifiutava in maniera del tutto ragionevole un intervento che in quelle condizioni ha una mortalità elevatissima e un rischio altrettanto elevato di complicanze. Cosa si poteva fare allora? Semplice. Ognuno avrebbe scritto la sua consulenza, il suo parere diagnostico, terapeutico e prognostico e sotto tutte queste belle parole la signora avrebbe dichiarato la propria volontà. Con il cellulare del giovane dottore, lei nella fretta e nella confusione aveva dimenticato il suo a casa, la nonnina chiamò le sue amiche, le più care, e un vicino di casa che era infermiere. Raccontò loro tutto quello che era successo e invitò tutti a casa per l'ultima partita a carte. Poi firmò i fogli. Il giovane dottore aspettò che la caricassero sull'ambulanza. Poi fece ancora una cosa che forse non avrebbe potuto, ma che gli sembrava indispensabile. Diede alla nonnina una siringa con dentro diluita una fiala di morfina. Le disse di farsi aiutare dal suo vicino di casa, l'infermiere, e di farsela fare lentamente, a piccole dosi, se il dolore fosse tornato. Ho pensato un sacco di volte al giovane dottore e alla nonnina. Ho pensato a queste 2 persone che percorrono un tratto di strada insieme. Quella strada che porta all'orizzonte, un giovane, figlio di tutti i figli, e una vecchia, madre di tutte le madri, che arrivati là, dove il mondo finisce, di fronte al buio cosmico, si salutano. Lei, per continuare, mite e coraggiosa, il suo cammino verso l'infinito. Lui, per tornare, chino impotente sui suoi passi, e negli occhi le tracce di un nuovo stupore. Giuseppe Naretto, in libreria con L'orizzonte capovolto. Ponte alle Grazie, 235 pagine, 14 euro.